Boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Kappa, questa è per te. Ma cos'è un drago? Una scatola di cioccolatini, ma perché? Perché San Valentino, Kappa? Mi sembrava un pensiero carino, anzi un pensiero molto carino. Sì. È molto carino questo pensiero, sì, no? Ti ringrazio, Drago, è carino. Ma adesso sono a dieta. Ecco, regalali a qualche amica, no? I cioccolatini. Insomma, Kappa, dai, non è educato rifiutare i regali, vabbè, anche se non sono graditi. No, tu dovevi far finta di apprezzare i cioccolatini e poi al massimo buttarli via. Vabbè, ma sei tu che regali a me i cioccolatini per San Valentino. È un'occasione come un'altra, un po' fuori luogo, Drago. Beh, allora vuol dire che ti vergogni di me, Beh, quello sempre, ma non nel senso che dici tu, E qual è il senso che dico io, scusa? Detta così mi sembra che mi vergogno di te in quanto partner. Beh, partner. Io sono a tutti gli effetti il tuo partner, non nella vita, però almeno alla radio sì, no? Ma appunto, quindi... ma San Valentino non è mica il santo dei partner radiofonici. Sì, però dai, siamo in fase di rimpasto di governo. Quindi le deleghe sono estese, esatto. I sottosegretari vengono nominati, quindi anche i santi cambiano un po', no? La delega. Quindi... Adesso San Valentino la delega al protettore delle coppie che stanno insieme non per amore, ma per altri motivi, come noi due. Tipo Noemi Letizia e il tronista. No, ma quelli sono stati insieme giusto il tempo di farsi fare due fotografie, poi si sono lasciati. Quindi bisogna aspettare le elezioni. Dopo le elezioni. Ma quindi, non so, tipo Ruby e il suo fidanzato marito lì, genovese. Tipo loro due, sì. O tipo il bambino premier e la sua fidanzata. Ma quale fidanzata? Appunto. No, il bello del bambino premier è proprio che è un affabulatore. Cioè, con i personaggi che si è inventato, potrebbe scrivere la sceneggiatura di un film. L'autista di Craxi, la figlia dell'autista di Craxi, la nipote di Mubarak, l'igienista dentale, la fidanzata. Ce ne saranno altri, ma adesso non me li ricordo. Beh, c'è anche il tycoon televisivo che diventa premier, fa tutto sto casino. Anche quello lì sembra un personaggio inventato. Quindi... No, quello purtroppo è vero. E ora, bambini, ricreazione. Oh, ricreazione, meno male, ne avevo giusto bisogno. Avevo bisogno di staccare, sai come si dice? Sì, di staccare cosa? Qualche bestemmia. Ma cosa dici? Ma quali bestemmie? Poi si bestemmia solo al Grande Fratello. E infatti, prima bisogna essere così presi al Grande Fratello, dopo si bestemmia e dopo si diventa famosi. Ah, è così. Allora, oggi è San Valentino, ma all'asilo non è come al liceo, che a San Valentino c'è tutta un'agitazione speciale. Qui, niente. Vabbè, ma per fortuna, dai. I bambini sono ancora esenti dalla maledizione del regalo di San Valentino. Vabbè. Beati loro, passano la giornata come se nulla fosse. Ed è giusto così. Bambino Alberto! Sì, eccomi. Oggi è San Valentino. Vedi? Vabbè. Bravo bambino abominio. Come? Bambino? Abominio. No, adesso basta, Abominevole uomo delle neve. No, perché in effetti io volevo giusto vedere voi due, per chiarire un po' di cose, ci sono delle cose che non mi vanno più giù. Siamo qua. Eccoci. Allora, la faccenda che non mi va più giù, non l'unica, specialmente quella. È una delle tante. È la storpiatura del mio nome. Sì. Ancora? Ma è una storia vecchissima, ormai. Appunto. È un gioco. Ma vabbè, dai. Allora, dopo tutti questi mesi siete ancora lì a divertirvi sul nulla? Come sul nulla? Sì, a storpiare il mio nome. A storpiartelo, fosse... te lo stroppiamo, lo so. Cioè, sarete anche adulti, però ci avete proprio il cervello di un bambino, Anzi, non un bambino, un babbuino. Appunto, babbuino Alberto. Basta, No, perché adesso anche sulla mia pagina di Facebook. Sì, la pagina del bambino Alberto, ricordiamolo, certo. Visitatissima, cercate piena di amici. Bambino Alberto e lui vestito da nordista. Lì sulla mia pagina. È un continuo, È una gara a trovare dei nomi ridicoli che assomiglino ad Alberto. E la colpa è vostra. Ma come nostra? Ti arrivano messaggi da tutta Italia. Scusa. Noi contribuiamo come tutti gli altri, però siamo solo due tra tanti, no? Allora, avete cominciato voi? Sì. Sì. Allora adesso tutti vi vengono dietro come dei pecoroni. Vabbè, ma ho capito, però dovresti esserne contento. Bambino Albertuccia, sai come si dice, no? Basta che se ne parli va sempre bene. Sì, ma quando arrivano cose tipo bambino Albano, o bambino Alfano, o bambino Al Capone, allora li girano le palle, A parte che hai citato tre personaggi diversissimi tra loro. Diversissimi. Infatti c'è Albano, che è un cantante, Poi un mafioso degli anni 30, Alfano. Capone. È vero, infatti. No, e poi un ministro attuale, quindi non è che puoi offenderti per tutti e tre, cioè o ti offendi per uno o ti offendi per un altro. Allora, passi per il gangster. Sì, ma il cantante è tremendo. Ma no, come? Bravo, una bella estensione vocale. E il ministro è brutto, Ma non è vero, guarda che assomiglia un po' a Angelina Jolie. Ma chi è Angelina Jolie? Ma l'avete visto in faccia? È un giovane, ha un discreto aspetto ma sembra mostro di gomma. Sì, per quelle che mi hanno regalato da piccolo. Poi la faccia sembra mica tanto normale, eh. È vero, è vero. È una faccia d'alieno. Lui sembra che uno è sceso dall'astronave l'altro ieri. Infatti, magari ha ragione lui. Sì, è il ministro della giustizia Alfa Centauri, che non so neanche se è un pianeta, un sole, non importa. Comunque, Albano, Alfano o Al Capone che sia, la gara a storpiarti il nome su Facebook dovrebbe solo renderti orgoglioso, perché è un modo per parlare di te. Dei nomi fantastici abbiamo letto. Bambino Seat Alhambra. No, forse non avete capito. Bambino Algoritmo. Bambino al pesto alla genovese. Bellissimo. Allora, basta, voi adulti avete un modo di ragionare che non si capisce mai al primo momento. Perché cosa sei piccolo, guarda Draghi, vabbè, cosa c'entra. Cioè, alla fine, io di cosa dovrei essere orgoglioso? Vabbè. Di vedermi chiamato Bambino Al Jazeera? Bambino Al Jazeera, bellissimo. Ma io mi chiamo Alberto! Ah sì, vabbè. Alberto! A, L, B, E, R, T, O. A come autistico, L di lunatico, B di bambino come me, E come esagerato, R come rimbambito, T come te e poi O come ho 30, A di ansiolitico, L di lisergico, B come bunga bunga, bingo bongo bamba, E come elementare, R son da rottamare, T come tre e poi O come orchidea. Grazie. Bravo, bravo. Bravo bambino Alberto. Però scusa, abbiamo visto che un tuo fan su Facebook ti ha chiamato bambino Alitalia. Dai, quello è un bel nome. Non ti piace? Ma no, all'Italia. Ma come? Dai, all'Italia è la nostra compagnia di bandiera. Ma quale? È la Good Company o la Bad Company? Ma dai, senti, lascia stare. Non sono cose da bambini quelle lì. All'Italia è una gloria della nazione. Ma, certo, ma non certo. Ti piacciono gli aerei? I piloti tutti eleganti, le hostess, gli steward. Ebbene, no, gli steward no. Però gli aerei mi piacciono. Ecco. E sono stato anche una volta su un aereo. Ecco perché ci sono certe compagnie aeree che stanno cominciando a offrire dei voli senza bambini. Da quando sei salito tu su un aereo, hanno capito che era meglio correre ai ripari. Sì, ma io non sono mai stato su un volo all'Italia. E me la odiano, Perché? Ma l'Italia, no? Voi sapete come sono loro. Appena una cosa puzza un po' di patria, di sciovinismo, e loro lo boicottano, Vabbè, ma con che compagnia hai volato tu? Boh, non so la compagnia, però l'aereo era un Tupolev. Ma come un Tupolev? Li fanno ancora? Io non so, sono quelle robe che si sentono. Vecchio, È tutto rattoppato, cioè, sembrava una scuola bus incidentato. Però andava, Andava. Poi andava. Però quando erano seduti sopra, era vietato muoversi e parlare. Vabbè, allora sei stato bravo, quindi tutto bene. Ma per forza, c'era un clima di terrore a bordo, Anche perché tutti avevano paura di precipitare. Ci credo. E perché era un Tupolev. Sì, poi sembrava uno scuolobus incidentato. C'erano solo due persone, tutte giulive, Erano i miei genitori. Per loro erano tutti eccitati, Quelli per la prima volta volavano sul mezzo della grande madre Russia per andare nella grande madre Russia. Vabbè, ci credo. Per loro era andare a casa, era tornare a casa. Back in the USSR. A casa. Intanto però per pranzo ci davano aringhe e vodka. Aringhe crude. E non è che potevi rifiutare, Aringhe crude è sempre meglio dei finocchi cotti. Sì, no? Sono buone. Sono aringhe e crude, quindi. No, questo non lo so però, Cioè, aringhe crude e vodka. Allora forse è peggio dei finocchi cotti, Ma com'erano ste aringhe, scusa? Cioè, immerse nella vodka, come l'oliva nel martini? Ah, no. C'era un boccone di aringa e un bicchierino di vodka. Un boccone di aringa e un bicchierino di vodka. Sì, due, Un boccone di aringa e un bicchierino di vodka. Ma quanti? Un boccino di aringa e un goccio di vodka. Ma così tutto il viaggio? Sì, e poi sono seduto, non lo so che... Dai, allora, almeno questo lunedì, anche questo è andato. Quindi, peggio è passato. No, il peggio. Hai detto che il martedì è il peggio, perché lunedì è vicino un po' al weekend. Ma questo momento del lunedì è già quasi martedì, insomma, è come se fosse martedì. Vabbè. Allora, sigla finale, quindi. Sì, però nuova, perché bisogna rinnovarsi, Drago, rinnoviamoci. Primavera, sì, giusto. Primavera, rinnoviamoci. Quindi la sigla di Chiedo Asilo diventerà un blues open source. Spiega tu cosa vuol dire open source. Vuol dire che sarete voi radioascoltatori a suggerirci le strofe della sigla finale di Chiedo Asilo. Le strofe che dovranno avere la metrica e diciamo lo schema della rima come l'attuale sigla, insomma, sì, no? Quindi è tutti più buoni, tutti più carini, oggi nel mondo comandano i bambini. E che poi, se vai a vedere anche un po' la metrica del giro giro tondo, quindi prova il giro giro tondo. Allora facciamo blues, eh? Oh yeah. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra. Chiedo asilo. E quindi dovete elencare i motivi per cui volete chiedere asilo. Ce ne sono tanti, molti. Mettetevi d'impegno e mandateci. Noi poi li canteremo nelle prossime puntate della trasmissione. Forza. Più talking blues, bravo. Più talking blues. Devi dirlo più come se fossi Bob Dylan, capito? Più una... Tutti quanti dovete così. Inventare una canzone. Va bene. E noi la canteremo. Oh, yeah. Alla fine della trasmissione. Oh yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Dovete chiedere asilo. Oh, yeah. Chiedere asilo. Talking blues.